Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno, finalmente è arrivato il nostro momento, è arrivato il momento di aprire le porte di questa casa che non è un albergo e non c'è casa senza Alberto Pellai, qua il mio inquilino, coinquilino preferito del sabato. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Io al sabato parto da casa mia ma arrivo qua in radio ed è veramente la mia seconda casa. Allora, Alberto, tra l'altro, come succede in tutte le case, si affrontano dei temi più lievi e dei temi un pochino più scottanti, più impegnativi, a volte più dolorosi e difficili da affrontare, come quello che cercheremo di fare, di trattare oggi con l'aiuto di tanti esperti. Oggi davvero un tema che ci riguarda un po' tutti, un tema per il quale molti di noi genitori sono totalmente ignari, inconsapevoli, non hanno conoscenze e competenze. Le coscrirete insieme a noi in una puntata davvero molto speciale della nostra trasmissione e partiamo da una sfida educativa. Ci è arrivata una mail da un genitore, ci ha messo molto in allarme, probabilmente avrebbe messo in allarme anche voi se l'aveste ricevuta. Ascoltiamola insieme e poi ne parliamo con gli ospiti. L'altro giorno, mentre Giorgia, mia figlia 14enne, era a scuola, sono entrato nel suo computer e ho fatto alcuni controlli. Lo so, ho violato la sua privacy, ma ultimamente ero molto preoccupato perché la sera dopo cena la vedo sostare a lungo di fronte allo schermo illuminato, rinunciando anche alla visione del suo telefilm preferito. Avevo ragione a preoccuparmi. Ho scoperto, usando la cronologia del computer, che Giorgia si era infilata in alcune chat e stava chattando con un trentenne in modo sessualmente molto esplicito. Attenzione, il trentenne non la stava imbrogliando. Gli aveva rivelato la sua identità e giusta età. Ciò nonostante, Giorgia corrispondeva con lui in modo alquanto esplicito e per me padre assai sconvolgente. Ho deciso di impedire l'accesso a internet a mia figlia per un bel po' di tempo. Stasera la affronterò e le dirò ciò che ho scoperto. Ma come padre mi sento spaventato, sfiduciato e solo. Cosa possiamo fare noi genitori di fronte al rischio di chi ghermisce i nostri figli via web? Alberto, la prima domanda che sorge spontanea, tu andresti così a curiosare, a controllare nel computer di tuo figlio? Cosa pensiamo di un figlio 14enne? È totalmente capace di gestire la complessità della sua vita e la complessità della navigazione in internet? Oppure quello rimane un territorio pericoloso che necessita di essere presidiato da parte dei genitori? Ogni genitore può dare la sua risposta. Personalmente penso che 14 anni è ancora quella fase della prima adolescenza in cui non si hanno molte competenze di vita, molte life skills, come dicono gli esperti, e forse per un genitore è necessario presidiare, regolare, intervenire. Ma ci confronteremo con tutti i nostri ospiti oggi. Che voglio presentarvi. Qua in studio con noi abbiamo il dottor Marco Valerio Cervellini. Buongiorno, grazie per essere qua a questa casa. Buongiorno a voi. Responsabile per la polizia postale delle comunicazioni dei progetti di educazione alla legalità e navigazione sicura dei minori sulla rete internet. Dottor Cervellini, giro a lei la stessa domanda che ho fatto ad Alberto. Assolutamente sì, è giustissimo che noi genitori controlliamo quello che fanno i nostri figli sulla rete internet, perché internet, se da un lato è uno straordinario strumento di comunicazione, socializzazione per un minore, è anche un valido strumento di crescita culturale, dall'altro è estremamente pericoloso. Una trappola, certo. Quindi la violazione della privacy può venir meno perché si fa a tutela dei nostri figli, dei minori. Quindi a fin di bene, no, Alberto? Si può dire così? Sì, e soprattutto perché quando hai 14 anni non sei ancora così padrone della vita, del mondo e della possibilità di muoverti in una città così complessa come internet. In linea con noi abbiamo un collega, Ferruccio Pinotti, giornalista, ha lavorato anche con la CNN e ha da poco pubblicato un libro per Burr dal titolo Olocausto Bianco. Ferruccio, ciao, benvenuto, grazie. Grazie a voi, grazie dell'invito. Senti, sulla tua copertina, Olocausto Bianco, pedofilia, nuovo cancro sociale, così l'hai definita. Sì, la pedofilia, come ci può confermare l'esperto vostro ospite, è veramente un cancro sociale, un'associazione in un recente convegno ha stimato che sono 41.000 i casi in un anno in Italia. A livello mondiale si parla di una tratta di esseri umani per 2,7 milioni di persone, questi sono dati dell'ONU. Associazioni come Telefono Arcobaleno hanno rilevato siti pedofili, ne hanno rilevati 34.152 dal 1 gennaio al 30 settembre 2008, sono dati freschissimi di oggi. L'Italia è al quinto posto nel mondo per consumo di pedopornografia. Inoltre, come diceva appunto il vostro esperto, una recente ricerca dice che il 79% dei ragazzi con meno di 18 anni utilizza internet e di questi il 77% naviga in completa solitudine e l'11% dei ragazzini intervistati ha avuto contatti con potenziali aggressori, quindi la pedofilia è un problema reale che non va sottovalutato. Senti, quindi alla luce di quello che hai visto e studiato per la tua inchiesta, quali sono i principali consigli che come osservatore privilegiato ti senti di dare al padre di Giorgia, a tutti i genitori all'ascolto? Il padre di Giorgia diceva il trentenne ha detto la verità. Nonostante questo, mia figlia aveva con lui un carteggio, lasciatemi usare questo termine, molto, molto diretto, molto da donna direi molto matura. Il consiglio è sicuramente quello di un dialogo molto aperto che va oltre, diciamo, il controllo delle attività su internet, nel senso che è vero che, diciamo, si parla di pedofilia in senso proprio tecnico penale, diciamo fino ai 13 anni, quindi 14 anni sono un'area grigia nella quale se esiste il consenso le situazioni si fanno molto complesse, però è vero anche che la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo appunto denomina l'essere umano fanciullo al di sotto dei 18 anni di età, quindi vi è un dovere soprattutto di informazione, di dialogo, possibilmente anche di messa a contatto di questi ragazzi in questa età delicata con esperti, con momenti formativi, con psicologi, con corsi, ormai ne esistono nelle scuole, ne organizzano anche i comuni, i servizi sociali di molte realtà italiane e quindi fornire, diciamo, tutti gli strumenti per capire che non è solo una questione di divieti ma di comprensione nell'uso del proprio corpo, fermo sottolineando il fatto che appunto un trentenne che si avvicina a una quattordicenne pur rivelando la propria età, comunque in un'area penale che resta comunque grigia, quantomeno tra i 13 e i 15-16 anni siamo in un'area grigia, quindi comunque vi possono essere dei profili anche di natura penale relativamente anche alla capacità di intendere e di volere. Dottor Cervellini, conferma? Sì, assolutamente confermo, perché i minori di 14 anni o comunque di 14 anni non sono in grado totalmente di intendere e di volere, pertanto c'è l'adulto che comunque cerca di adescare nonostante dica la verità, comunque risponde del reato di pedofilia. E adesso noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi di nuovo qui insieme ai nostri esperti cercheremo di dare ai genitori in ascolto e di prenderli anche per noi, Alberto, perché anche noi siamo genitori, quindi meglio tutelarci e cautelarci, delle informazioni, delle indicazioni chiare e pratiche per aiutare i nostri figli a maneggiare internet in tutta sicurezza. Questa casa non è un albergo. Ragazzi che navigano in siti pericolosi. Questo è il tema di oggi. Parliamo naturalmente anche di pedofilia via internet. Alberto, un tema molto caldo che per molti genitori resta di grande preoccupazione, ma c'è un po' una scarsa conoscenza e quindi molti pensano di non avere gli strumenti per intervenire, per aiutare, per fermare eventuali abusi. Credo che la lettera con cui abbiamo cominciato oggi a noi genitori pone davvero un problema molto serio. La figlia del papà che ci ha scritto stava chattando in modo sessualmente molto esplicito con un trentenne che non la stava imbrogliando, cioè le ha rivelato apertamente la propria età, e ciò nonostante lei, 14enne, si è messa in contatto e ha intrattenuto una conversazione di questo tipo. Consultavo alcuni dati di una ricerca americana fatta analizzando tutte le denunce pervenute all'FBI, e il ricercatore concludeva proprio che questo è un aspetto che come genitori ci deve colpire molto. Succede frequentemente che figli minorenni, i nostri figli minorenni, si mettano in contatto attraverso siti internet con adulti con cui hanno conversazioni sessualmente esplicite, che non li stanno imbrogliando, cioè sono adulti che si presentano come tali, io ho 30-40 anni, e conversano con dei ragazzini o delle ragazzine su temi ad alto contenuto sessuale. Allora, da una parte abbiamo proprio questo problema, cioè la pedofilia, gli adulti interessati ai minori si stanno facendo molto aggressivi e sfruttano la potenzialità dell'anonimato offerto da internet. Dall'altra parte abbiamo una quantità crescente, enorme, di nuove offerte, di nuove modalità di contattare i nostri minori. Dal libro di Ferruccio Pinotti, Olocausto Bianco, abbiamo tratto alcune informazioni che tra le altre cose riguardano una ricerca che ha curato proprio il dottor Cervellini, che poi ce ne parlerà. Ascoltiamo la scheda e poi andiamo avanti ad approfondire insieme a voi il tema di oggi. Secondo i dati raccolti da Polizia Postale e delle Comunicazioni, nelle scuole secondarie italiane il 91% dei minori naviga in rete e il 27% utilizza le chat, mentre quasi l'80% di essi affronta il mondo di internet senza la supervisione di un genitore. Anche in conseguenza di ciò, più di un ragazzo su 10 dichiara di avere avuto contatti pericolosi sul web. Un dato allarmante se si pensa che di questi minori il 75% non parla poi in casa con i propri genitori di tali incontri sgraditi, per vergogna o perché i genitori non capirebbero. E ancora, più della metà dei minori italiani tramite il web ha accesso al mondo della pornografia. Ecco i principali risultati dell'attività investigativa della Polizia Postale e delle Comunicazioni effettuata sulla rete internet tra il 2001 e il 2008. Soggetti arrestati per pedofilia online, 219. Persone denunciate per pedofilia online in stato di libertà, 4216. Perquisizioni 3.978, operazioni di rilievo internazionale 60, siti web monitorati 287.806, siti web pedofili chiusi in Italia 177, siti web pedofili segnalati all'estero 10.962. Dottor Cervellini, in parte Ferruccio Pinotti ci aveva già tratteggiato un po' i numeri di questo problema, ma quali accorgimenti vi sentite di dare come Polizia Postale ai nostri genitori all'ascolto, alla luce del lavoro che ogni giorno effettuate, e partendo proprio da questi dati, mi permetta, da paura? Polizia Postale delle Comunicazioni sta svolgendo una incisiva campagna di sensibilizzazione, perché purtroppo molti genitori pensano di aver sostituito la babysitter reale con quella virtuale, quindi metterli davanti a un computer per loro è una soluzione per tenere impegnati i propri figli, inconsapevoli però, perché purtroppo c'è una scarsa percezione del rischio, proprio non si rendono conto della pericolosità e quindi abbandonano i figli nell'esplorazione della rete in assoluta veramente solitudine. Quello che ci sentiamo di dire è che i genitori devono affiancare i figli durante la navigazione, è importante, è fondamentale, perché quello che è emerso dalla ricerca di un campione al quale abbiamo somministrato circa dei questionari anonimi a oltre 50.000 adolescenti di fascia di età 11-14 anni, che poi è quella più pericolosa in assoluto, è proprio la mancanza di dialogo con la famiglia. I genitori delle volte, spesso e volentieri, si dimenticano dell'esistenza dei figli. Quando tornano a casa la sera li lasciano soli davanti al computer, e soprattutto un errore grandissimo che fanno spesso e volentieri è di installare la postazione internet all'interno della propria stanza alla camera da letto. Questo si equivale a lasciare i figli da solo dentro casa con la porta aperta. perché durante la notte, che è l'orario diciamo più pericoloso, i figli continuano a navigare in rete, a chattare, e i genitori dormono dall'altra parte, con il rischio concreto veramente di adescamento. I dati sono allarmanti, però bisogna anche dire che la pedofilia è sempre esistita dalla notte dei tempi. Internet è uno degli strumenti utilizzati dai pedofili appunto per adescare le loro vittime. Ferruccio Pinotti, come ci diceva il dottor Cervellini, la pedofilia è sempre esistita, però, come lei scrive nel suo libro, è diventato davvero un nuovo cancro sociale, numeri sempre più elevati. Ciò nonostante, anche nella scheda che abbiamo ascoltato tratta dal suo libro, i minori continuano a non parlare coi loro genitori di eventuali contatti o adescamenti per vergogna o perché i genitori non capirebbero. Davvero questo tema, che è un po' sulle pagine di tutti i giornali, è ancora connotato dalla vergogna e dell'incapacità di capire del mondo adulto? Cosa ha scoperto lei in questa indagine a 360 gradi su quello che ha definito l'olocausto bianco? È assolutamente un tema tabù, quello della pedofilia e comunque dei rapporti anche pericolosi, quali quelli segnalati dalla lettera. Un consiglio che mi sento di dare è quello di rivolgersi con fiducia alle forze di polizia, quindi la polizia postale, ma anche la magistratura ordinaria, nella quale stanno maturando delle straordinarie sensibilità su questo tema, anche delle forti competenze. Vi sono procure come quella di Torino, di Milano e anche di Roma, in cui sono ormai sorti dei veri e propri pool antipedofilia, per cui al minimo dubbio non bisogna avere timore di contattare la magistratura e comunque anche la rete degli assistenti sociali, quindi i nostri comuni, che ormai dispongono di operatori estremamente preparati sul tema della pedofilia e comunque dei contatti che possono riguardare i minori. Se un genitore all'ascolto volesse denunciare un sito pedofilo, oppure volesse chiedervi aiuto perché ha scoperto proprio nelle mail dei figli un contatto da parte di un adulto a tema sessuale, cosa può fare? A chi si può rivolgere? Vi può chiamare direttamente? Certamente può fare il 113, oppure via web da casa è possibile raggiungere il commissariato online www.commissariatodps.it, che è operativo 24 ore al giorno, al quale mandare immediatamente una segnalazione e poi si interviene e la persona viene immediatamente contattata. Quindi assolutamente devono farlo, perché spesso intervenire, anche il semplice dubbio per noi è fondamentale per intervenire immediatamente, perché intervenire quando ormai un reato è stato commesso, un minore è stato abusato, sicuramente è tardi, è una sconfitta per la società, è una sconfitta per tutti, diciamo anche per noi della polizia. Allora io saluto il nostro collega Ferruccio Pinotti, tra l'altro vi ricordo il titolo del suo libro, Olocausto Bianco, un'inchiesta a 360 gradi in collaborazione anche con Carlotta Zavattiero. Ferruccio, grazie. Vuoi dare un ultimo consiglio ai genitori in ascolto, ad esempio? Sì, vorrei solo dire questo, che esistono anche dei programmi di inibizione all'accesso ai siti internet o comunque di contenuto sessuale, sono programmi normalmente diffusi anche in tutte le aziende che le installano per i propri dipendenti, quindi assolutamente anche i genitori possono installare questi programmi, che già hanno un effetto di deterrenza molto forte. Certamente è difficile vietare le chat, però se già si vieta l'accesso a certi siti può essere un messaggio anche forte. Quindi sono utili e si possono reperire facilmente, sì. E possono rappresentare uno scudo, no Ferruccio? Sì, sì, uno scudo protettivo. Assolutamente. Nel frattempo noi però come famiglia dobbiamo continuare a lavorare, perché sicuramente l'informazione, il dialogo con i nostri ragazzi può essere utile a far cadere quel timore che viene descritto anche dalle inchieste, i ragazzi hanno nel raccontare ai genitori di essere stati adescati o di visitare siti, no, che potrebbero essere considerati sconvenienti perché lo sono dai loro genitori. Quindi io penso che il lavoro debba essere fatto da più fronti. Ferruccio, grazie, complimenti, buona giornata. Grazie, arrivederci. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme. Sottotitolo di questa nostra trasmissione di oggi, in cui parliamo di siti pericolosi per i nostri ragazzi, Alberto, quale potrebbe essere? Ma direi da una parte usciamo dalle gabbie e allo stesso tempo però impariamo a capire dove sono queste gabbie. Allora io vorrei con Ferruccio Pinotti, che è stato ospite della prima parte della nostra trasmissione, abbiamo accennato alla possibilità che i genitori hanno di mettere dei filtri, dottor Cervellini, si possono scaricare dalla rete, lei ha qualche consiglio particolare da dare ai nostri genitori? Poi so che c'è anche una lista nera. Si possono scaricare semplicemente dalla rete, ci sono alcuni parental control, i filtri sono gratuiti, altri a pagamento, quindi c'è una svariata possibilità di installarli. Sono importanti, fondamentali, perché quantomeno riescono parzialmente a far navigare in tranquillità i minori. Dall'altro invece, con l'entrata in funzione del Centro Nazionale di Contrasto della Pedofilia Online della Polizia di Stato, noi abbiamo creato una blacklist. Una blacklist sono dei siti pedopornografici che vengono comunicati periodicamente ai gestori di rete e quindi vengono inibiti alla visione in Italia. Quantomeno si evita che i nostri figli, quando navigano sulla rete, non si ritrovano davanti tutti i link pedopornografici e quindi ogni volta che vanno a chiudere ne compare un altro. Quindi voglio dire, quantomeno c'è questa tutela. In più, se qualora dei genitori dovessero rilevare dei siti pedopornografici che comunque compaiono, di comunicarli, perché tenendo presente che noi facciamo il monitoraggio della rete e noi attualmente ne abbiamo inibiti circa 300 di siti pedopornografici, il 50% ad opera del personale che lavora nel monitoraggio, ma il restante 50% è stato possibile grazie alla collaborazione dei cittadini, dei genitori, delle associazioni Onlus che comunque sono impegnate alla tutela dei minori contro il fenomeno della pedopornografia. Quindi invitiamo i genitori in ascolto a collaborare con voi. Assolutamente, è fondamentale. E adesso invece invitiamo nella nostra trasmissione Simone Di Maggio. Buongiorno Simone. Buongiorno a voi. Simone è un giovane uomo molto coraggioso, ha scritto un libro che si intitola Avevo 6 anni e mezzo. Ascoltiamo insieme a voi un breve estratto dal libro e poi parleremo insieme a lui per capire se ci dà qualche consiglio a noi genitori per aiutare i nostri figli in questo ambito molto complesso. Simone, perché piangi? Alzo gli occhi, scosso dai singhiozzi, e quello che trovo è uno sguardo che conosco. Occhi chiari, un sorriso, una carezza. Ti hanno lasciato solo? Ho i piedi inzuppati dentro gli scarponcini. Vieni con me, andiamo a casa. La mamma arriva subito e noi l'aspettiamo qui vicino. Sposto il peso da un piede all'altro. Mi piace l'effetto a ventosa. Torniamo dopo, dai, vieni, dammi la mano. Il rumore di spugna che fanno i piedi dentro le scarpe bagnate. Poi allunga la mano. Ha gli occhi belli e buoni. È un signore grande. L'ho visto spesso al parco giochi, alto, con i capelli scuri, un po' lunghi. Sta a pochi passi da me. E mamma? Dov'è? La mamma non c'è. E questo signore è un amico perché sa il mio nome, perché ora non sono più solo. Allungo la mano e lui la stringe. L'ascensore si chiude e poi si riapre. E ci troviamo di fronte a una porta. La ricordo bene. Molto vecchia e rovinata, marrone chiaro. Ho fame, lo dico a voce alta e le mie parole rimbombano nel silenzio del pianerottolo. Lui non mi risponde, armeggia in fretta con la porta, apre e mi dice di entrare. Dai che ti do qualcosa di buono da mangiare. Da quel momento divento Simone. Il bambino non esiste più. Simone ha scritto la sua storia di vittima di abuso sessuale nel libro Avevo 6 anni e mezzo, lo abbiamo voluto con noi oggi perché in un tempo brevissimo ci dica come genitori, quali sono i messaggi fondamentali da condividere con i nostri figli per proteggerli dal rischio di un abuso sessuale. Io suggerisco ai genitori sicuramente di far capire ai bambini già da piccoli i gesti che sono, possono essere accettati e visti di buon occhio, come possono essere le carezze di un nonno, di un padre o anche di un amico, piuttosto che in alcuni punti o alcuni gesti che non sono ideali. Io il libro l'ho scritto appunto per questo motivo e soprattutto per far sì che le vittime come me riescano ad aprirsi e non abbiano né paura né vergogna di farlo, perché ci sono degli stimoli vitali che possono aiutarci a farlo. Simone, qual è stato il motivo per cui per così tanti anni, come dice nel libro, lei non è riuscito a raccontare il suo problema ai suoi genitori? Perché nella vittima si crea un senso di colpa, quindi ci si sente colpevoli, si pensa di essere diciamo appunto colpevoli del reato, e quindi si ha vergogna, si ha paura, non si riesce neanche ad aprirsi con i familiari o le persone a cui si vuole bene. E questo è il motivo per cui l'abuso sessuale è, come dico spesso anch'io, un problema di parole non dette. Grazie Simone per aver detto queste parole non solo alla radio ma anche nel suo libro. E perché un genitore dovrebbe leggere il suo libro? Perché nel mio libro potrebbe trovare appunto i gesti del bambino, per cui poter capire se c'è questo rischio e magari anche il motivo e i modi per cui aiutare qualcuno ad aprirsi, perché secondo me è importante questo, non tanto trovare i pedofili ma trovare le persone che stanno male e non riescono ad aprirsi e aiutarle a sbloccarsi. Grazie Simone, io sono certa che il tuo libro aiuterà anche molte persone che non hanno avuto il coraggio di raccontare il loro abuso a prenderne consapevolezza e coscienza, a trovare le parole per liberarsi da questo peso che stringe sul cuore. Grazie Simone, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Dottor Cervellini, c'è anche un'altra forma di adescamento che sta prendendo piede, oltre a internet e via telefonino? Assolutamente sì, è un fenomeno emergente che stiamo monitorando, che stiamo veramente sul quale ci stiamo lavorando sopra. Ma mi spiega esattamente che cosa succede, perché noi, sai che noi genitori siamo gli ultimi a saperlo. Come funziona? Ricevono messaggi, telefonate, che cosa si può fare? Avviene questo sia sulle chat ma anche con i telefoni di alta tecnologia, gli ultimi, dove è possibile navigare allo stesso modo, con la differenza che mentre con il computer ci naviga a casa, con questo ci puoi navigare anche in strada, quindi averlo 24 ore al giorno. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che alcuni pedofili che hanno adescato delle minorenni, delle bambine, parliamo bambine adolescenti, 11-14 anni, hanno chiesto delle immagini pornografiche di se stesse in cambio delle ricariche telefoniche. E una indagine che ha fatto la polizia postale grazie alla denuncia di una madre che ha trovato sul telefonino della figlia la foto di un uomo nudo, l'ha portato alla polizia postale e siamo risaliti abbiamo arrestato 9 persone addirittura e 300 minori e adolescenti coinvolte. Nessuna di queste 300 adolescenti ha raccontato ai genitori di essere stata adescata o quantomeno ha avuto un tentativo di adescamento. Questo sì, per far comprendere l'importanza del dialogo tra genitori e figli. Un'ultima cosa, la polizia postale sta portando avanti ormai da 10 anni dei progetti di sensibilizzazione nelle scuole, di aggiornamento e formazione degli insegnanti e soprattutto di consigli utili per i genitori, cosa che però quando incontriamo i genitori su un plesso scolastico di 800 studenti, al massimo vengono 10 genitori. Quindi genitori all'ascolto, come siamo io e Alberto, proviamo anche noi a collaborare, perché abbiamo a disposizione tanti strumenti, si sono fatti tanti passi avanti, tante volte per pigrizia, per questo problema non tocca a me, si rimane ai margini. Invece abbiamo visto anche da quello che ci ha raccontato il dottor Cervellini che il coraggio di una mamma ha portato a scoprire... Vero, delle... Allora, la nostra trasmissione si chiude qui. Io voglio ringraziare il dottor Cervellini che ci ha dato veramente una mano e Alberto, noi ci dobbiamo salutare. Devo dire, proprio con pochissime parole siamo sbigottiti per quello che abbiamo ascoltato, ma ne sappiamo di più. Bravo, io devo dire che sono più serena e mi sembra che questo sia già un passo avanti. Grazie dottor Cervellini, Alberto salutiamo, appuntamento al prossimo sabato, quindi buon sabato da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.